English 24. Buonasera da Marta Cagnola e da Giulia Crivelli. Questa sera parliamo un po' di gossip. In realtà lo spunto ci è stato dato dal nostro English 24 in edicola, che parla di crisi, come spesso accade ai noi in questo periodo, ma della crisi che riguarda un aspetto molto particolare, quello della vita dei divorziati. Le cose cambiano anche sotto questo punto di vista in questi tempi difficili. Ci racconta tutto il Sunday Times e noi ascoltiamo un breve estratto dal CD allegato al nostro English 24 in edicola. The courts are expected to rule soon in a series of test cases brought by once wealthy city workers who want to renegotiate their hefty divorce settlements now that they are deprived of their large bonuses. Top divorce lawyers have all had a surge of cases in which husbands are either stalling on divorce settlements or want to return to court to challenge the original deal. The first court rulings are expected within months. Lawyers said this week that the trend would grow. Julian Lipson, a partner with Withers, said that there had been a surge of inquiries. In contrast with the boom times when people rarely went to court to seek to vary a maintenance payment. Divorce lawyers have had a bunching of variation cases being initiated from November or December last year until now, he said. There have been nearly as many inquiries about variations as about family breakdown. Lo stiamo imparando tutti a nostre spese, in questo periodo bisogna ridimensionarsi un pochino. E in questo caso cosa succede? Dunque, la prova del 9, diciamo, verrà tra poco, perché the courts are expected to rule soon, cioè le prime sentenze, the court sono i tribunali, expected to rule, ci si aspetta che i tribunali presto emettano le prime sentenze, che quindi daranno la misura di quello che sta succedendo. Verranno rinegoziati, e questo verbo è difficile in italiano, ma se non altro impronunciabile, ma uguale in inglese, gli accordi, insomma, tutto quello che è stato deciso fino adesso dovrebbe cambiare? Sì, è tutto iniziato con una causa portata in court, appunto in tribunale, da un once wealthy city worker, cioè uno che una volta era ricco. Wealth, la ricchezza, wealthy, ricco. Quindi era una volta ricco, perché naturalmente tutti in questo momento siamo costretti a rinegoziare il nostro standard di vita, in questo caso anche rinegoziare their hefty divorce settlements. Hefty vuol dire pesante. C'era una pubblicità famosissima negli Stati Uniti qualche tempo fa, che da una parte c'era un sacchettino della spazzatura che si rompeva ed era wimpy, wimpy, wimpy, e poi invece uno forte, forte, che diceva: io invece sono hefty, hefty, hefty. Quindi vuol dire forte nel senso pesante, pesante che per chi naturalmente deve pagare gli alimenti. È perché loro sono stati deprived, anche qui, simile all'italiano. Naturalmente non depravati, ma gli è stato tolto il their large bonuses. Sappiamo che chi aveva i bonus addirittura a volte li deve restituire, e chi invece magari li ha avuti quest'anno non li avrà, e quindi naturalmente quei divorce settlement che includevano magari anche una parte di questi bonus, perché giustamente alla moglie spetta anche una parte del bonus in quanto parte del guadagno del marito, non ci sono più, e quindi bisogna rinegoziare quei settlements. Quindi la deprivazione ha un effetto sui settlements e sui deals. Qui siamo più o meno nello stesso ambito. Quindi questi husbands, questi ex mariti, vogliono challenge the original deal. Challenge naturalmente vuol dire, sappiamo che vuol dire sfida, ma in questo caso challenge vuol dire rimettere in discussione the original deal, l'accordo originale, che naturalmente si viene stipulato da un accordo divorzista e certificato da un avvocato divorzista e certificato da un tribunale, però poi, come tutti gli accordi, può essere rinegoziato. Prima non succedeva tanto, invece adesso la tendenza sta aumentando. Sì, forse una volta quando uno divorzia probabilmente vuole proprio voltare pagina, quindi people rarely went to court to seek to vary their maintenance payment. Quindi le persone raramente si recavano in tribunale, to go to court, quindi went to court, per cercare di variare questi accordi di mantenimento, quelli che noi chiamiamo gli alimenti. Però the trend now would grow. I lawyers hanno spiegato, gli avvocati hanno spiegato che, e qui c'è questa parola che abbiamo sentito spesso quando ci sono le biografie di Obama, perché Obama è entrato in uno studio legale di cui la moglie era partner, e qui per esempio appunto nell'articolo viene citato un lawyer che è partner with Withers, cioè un partner dello studio Withers, probabilmente famoso per gli accordi di divorzio. Beh, insomma, è un argomento un po' triste sempre quello del divorzio, quello della separazione. preparazione. Allora cerchiamo di giocarci un po', se non altro andando a fare un po' di gossip, perché la storia di copertina del nostro English 24 in edicola è una di quelle coppie, insomma, sempre fotografate insieme, però insomma forse non vanno così tanto d'accordo. Allora abbiamo cercato di capire cosa succede tra Jennifer Lopez e Marc Anthony, ma divorziano o no? Cerchiamo di scherzarci su, appunto, ascoltando questo breve estratto da CelebTV.com. It's the case of the on-again, off-again wedding ring. Hi, everyone. It's Cassidy Hubbard for CelebTV.com. It looks like Jennifer Lopez is letting her fingers do the talking. At the Golden Globes, it was off. But at Sunday night's Latino inaugural gala in Washington, D.C., it was back on. We're talking, of course, about Jennifer Lopez's gigantic rock. She and hubby Marc Anthony, along with Shakira, were some of the special guests at the celebration. Rumors have been swirling for weeks that Jennifer and Marc Anthony are calling it quits. Adding fuel to the fire were the several times J-Lo has been spotted without her wedding ring. The star insisted she left the ring at home on the night of the Globes, all in the name of fashion. She told In Touch Weekly, "Every time I'm not wearing my ring, people think I'm getting divorced. That's crazy. It just didn't go with the dress. Divorce is not and was never an option." Allora, questo è lo stile proprio con cui parlano le giornaliste di questi magazine di gossip. Allora, per il momento, poi non si sa mai con queste coppie di Hollywood, pare che no, Marc e Jennifer stanno ancora insieme. Sì, e tutto questo viene dimostrato da, cioè, Jennifer lets her fingers do the talking, cioè to do the talking vuol dire lasciar parlare, perciò lei lascia che siano le sue dita a parlare. Perché? Perché quello che viene osservato da CelebTV.com e da chissà quanti altri siti e giornali di gossip è se il wedding ring, se l'anello di matrimonio è on again, off again, cioè c'è questa vera e la si vede al dito di Jennifer o no. It was off, it was back, se lo toglieva, se lo rimetteva, tu dici hanno osservato. Devo dire che non è difficile osservarlo, perché loro stessi lo definiscono un gigantic ring. Sì, non pensate a una delle nostre vere, perché in Italia sono, insomma, è tradizione averla abbastanza sobria, magari un pochino più piccola, un pochino più grande, portata magari insieme all'anello di fidanzamento. In America si concedono di tutto, anche questi anelli con questa gigantic rock, cioè una pietra gigantesca, probabilmente un diamante. Io non ci ho mai fatto caso, lo farò sicuramente, vedrò se ce l'ha al dito o no. Io ho visto le immagini di questo servizio e devo dire che è imbarazzante. Allora, qualcuno aveva cominciato a fare dei rumors, che non sono esattamente dei rumori. No, è proprio il pettegolezzo, e tra l'altro è usato sia per argomenti come questi che anche in finanza, cioè il rumor finanziario è una voce su magari anche un argomento serissimo, la quotazione o non la quotazione o il fallimento di un'azienda. Quindi questi rumors have been swirling. Questo, naturalmente, il fatto di usare questa forma verbale che conosciamo e che significa che dà un senso di lunghezza lungo un certo periodo, vuol dire che questi rumors si sono moltiplicati. Have been swirling, to swirl, swirl è proprio qualcosa di contorto ma in senso simpatico, quindi i rumors si moltiplicavano, ma non ieri, si sono moltiplicati per un lungo tempo. La gente continua a parlarne, non si stufa mai di Jennifer Lopez. Ma la motivazione è assolutamente profonda. Perché Jennifer Lopez si toglie e si mette l'anello del matrimonio? Quindi lei e Marc Anthony non calling it quits. To call it quits vuol dire chiamarne la fine. Si può usare anche per una partita di calcio. In questo caso, naturalmente, vorrebbe dire far finire il matrimonio. No, quell'anello non c'era. All in the name of fashion. Naturalmente in the name of, come lo usiamo noi, nel nome di qualcosa, in questo caso nel nome della moda. That ring just didn't go with the dress. To go with vuol dire star bene, quindi star bene con un vestito, non stava bene col suo vestito, quindi perché metterlo? Potrebbe farsene regalare un altro, non stava bene col vestito e non hanno nemmeno considerato il fatto di poter divorziare. Jennifer ha confermato, divorce is not, quindi non è in questo momento, and was never an option. To be an option vuol dire essere una possibilità più che essere un'opzione, noi diremmo così, non c'è proprio, non è mai stato, non ho mai pensato, non ho mai preso in considerazione, né mai lo farò, vedremo, ultime parole famose, il divorzio. Beh, possiamo permetterci di scherzarci, perché veramente queste coppie di Hollywood ne combinano una tutti i giorni. Chi invece ha davvero alla fine divorziato, e devo dire che io non ci credevo, pensavo che fossero una coppia felice, sono stati Madonna e Guy Ritchie. Ma soprattutto Madonna adesso vuole allargare la famiglia con una nuova adozione in Africa. Sentiamo un estratto da Times Now. We always knew it. He was three and still counting. Material Girl has decided to do what she's famous for. Yes, adopt. Madonna is set to add tot number 4 to the family. Another Malawian child is going to be part of Madge's brood. Apparently, Madonna wanted to redress the balance in the family by getting Mercy James as a sister for her first adopted Malawian son, David. After rousing controversy over her first adoption, this time the process has been marred by her rather loose lifestyle. So there, Madge, before you get a 22-year-old boy toy, remember, it might hamper your ever-growing hatch. Entertainment Bureau, Time's Now. Lo stile è sempre così molto, molto gossip sul fatto che lei, ci sono state un po' di polemiche, adotta i bambini un po' come se dovesse scegliere una nuova borsa, ecco, un po' fa così. Tant'è che questa giornalista, che ha tra l'altro un accento inglese mentre quella di prima aveva un accento americano, Madonna è un po' lì in mezzo, no? Perché per molto ha vissuto a Londra, poi ha sposato Guy Ritchie che era inglese, quindi è al centro del gossip transatlantico. In ogni caso lei dice "We always knew it". L'abbiamo sempre saputo, noi diciamo così. It was 3 and still counting. Quindi eravamo arrivati a 3, but to be still counting vuol dire saremmo andati avanti. Count naturalmente contare, e vuol dire sarebbe il conto sarebbe andato avanti. Material Girl viene ancora chiamata Material Girl, cioè la ragazza materiale, insomma, interessata alle cose materiali. Dopo 25 anni dalla sua canzone, lei è rimasta assolutamente così. Ha deciso di fare una cosa per la quale appunto è diventata famosa. Quindi has decided to do what she's famous for. Due punti, adopt. Ormai Madonna, insomma, she's famous for adopt. Questa è una sentenza un po' dura, forse. Non è che sia famosa soltanto per questo, però è vero che ormai, oltre alle canzoni, Madonna si fa notare per un sacco di altre cose. Dalle cose di beneficenza alle occasioni in cui si fa vedere con sua figlia, insomma. E naturalmente quando va in Africa a scegliere, come se scegliesse una borsetta, il bambino malawiano più carino. E infatti ci sono state molte polemiche sotto questo punto di vista. Insomma, non lo diciamo solo noi. Viene utilizzata un'espressione, il toddler, che vuol dire bebè, ma perché poi toddle vuol dire anche giochicchiare, quindi è un modo molto affettuoso per dire un bambino piccolo. E la sua motivazione è stata che lei doveva ribilanciare un attimo il suo menage familiare, quindi readdress the balance. Un po' cattivella la giornalista che si esprime in questo senso. Process has been marred. Ci sono delle espressioni che magari non sono così, così comuni in questo servizio. Quindi to be marred vuol dire essere marcato, ma nel senso, in senso negativo. Quindi l'ultima adozione, quel processo di adozione era stato marred after housing controls, cioè qualcuno le aveva detto: cara Madonna, tu in fondo sei una candidata mamma come tante altre, dobbiamo venire a controllare a casa tua se il bambino starà bene. Poi quei controlli erano, naturalmente, avevano dato esito positivo. Questa volta invece hanno controllato e hanno scoperto che lei ha un rather loose, vuol dire, scritto con due O, non perdere ma sciolto, quindi potremmo dire disinvolto, ha uno stile di vita un po' disinvolto ultimamente, da quando ha lasciato Guy Ritchie, perché pare che si accompagni con dei ragazzi molto giovani. E quindi la giornalista le dice: so there Madge è divertente perché è uno dei tanti soprannomi di Madonna, e a volte, per molto tempo, lei ha detto chiaramente che non le piaceva, poi ha scoperto che Madge in realtà in Inghilterra è il diminutivo di Her Majesty, cioè Her Majesty the Queen, e allora ha cambiato idea, ha capito che era un nickname di tutto rispetto, adesso le piace. Sta di fatto che lei ha questo 22-year-old boy toy, cioè questo ragazzino, in inglese boy toy è riferito a quelle signore di una certa età, Madonna ormai ha compiuto 50 anni, che si scelgono un ragazzo molto più giovane per giocare, boy toy si suppone. Beh, questo might hurt your growing hatch. Beh, il fatto di esserti scelto questo splendido 22enne potrebbe essere un problema. It might hurt your growing hatch. Il hatch è il nido, il tuo nido che tu vuoi far crescere così, però c'è qualcuno che è contrario. Ma io non sono tanto d'accordo, insomma, facciamo il tifo per Madonna. Pare che lei voglia molto bene a questi bambini, quindi insomma continuiamo a fare il tifo per lei. Ma abbiamo finito il nostro tempo per il nostro English 24 di questa settimana. Vi ricordiamo l'appuntamento in edicola con la nostra rivista e il CD allegato. Ringrazio Giorgio Mate in regia, da Marta Cagnola e Giulia Crivelli. L'augurio di una buona serata.